Max 24, la storia. Potrei essere uno di voi e dico di peggio. Se Tortora in questo momento impazzisse, se Tortora in questo momento perdesse quell'equilibrio di nervi che cerca di tenere dal 17 giugno con una disperazione che confina col tormento, e improvvisamente Tortora impazzito, dicesse: ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera e poi magari si discute. È quello che è capitato a Enzo Tortora, è diventato quasi un incubo per la giustizia, un popolarissimo divo della televisione, il volto di Portobello e di moltissime altre trasmissioni di successo, che alle 4 del mattino viene svegliato, arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Un caso drammatico che ritorna ogni volta che si parla di riforma della giustizia. Solo pochi giorni fa, proprio ai microfoni di Mix 24, il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri ha detto: sicuramente ci sono stati dei momenti pesanti. Quello che ha fatto più male a tutti, che nessuno di noi dimentica, è Tortora. È stato il primo, il più eclatante, il più doloroso. E il caso Tortora è sicuramente una delle pagine più inquietanti della nostra storia giudiziaria recente. Un uomo innocente, una vittima di un clamoroso errore giudiziario che ne ha distrutto la carriera prima e la vita poi. E questo caso ha inizio in una notte d'estate. Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo. Un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona. 17 giugno 1983. È un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno. È lo stesso Enzo Tortora che, ritornato a Portobello, ricorda così quella mattina. Ma oltre al suo ricordo c'è anche quello di Raffaele Della Valle, il suo avvocato difensore, e le figlie Silvia e Gaia. Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato, e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla Nuova Camorra Organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando. Mia madre, che parlottava al telefono in modo concitato con qualcuno, poi andai in bagno, lei mi raggiunse e mi disse: guarda, non vorrei darti una notizia un po' strana, ma hanno detto che hanno arrestato papà. Ero nella stanza dell'albergo dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4 un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, mi dissero: dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato. E io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo: credo che la notizia sia lievemente esagerata. I fatti che hanno portato al suo arresto, più di una ipotesi, nessuna certa. Una vuole che sia rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga, l'altra che sia stato coinvolto nell'organizzazione camorristica da Francis Turatello, del quale sarebbe... Vedevo un mostro alla televisione che mi dicevano essere mio padre, ma in realtà non era mio padre. Non capii nulla. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità. Ma quello di Enzo Tortora non è né un incubo né un sogno, ma è la verità di una gogna mediatica, di quelle manette esposte davanti alle telecamere, ai fotoreporter, di quelle accuse gravissime che gli sono state rivolte. Ma a finire in manette quel giorno, il 17 giugno dell'83, non è solo Enzo Tortora, ma sono 856 gli ordini di cattura emessi dai sostituti procuratori di Napoli, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, in quella che venne poi definita il venerdì nero della Camorra. Per gli inquirenti, infatti, quello voleva essere un colpo mortale a una Camorra che in quegli anni, in Campania, sembrava padrona incontrastata del territorio. All'apertura dell'anno giudiziario nel 1983, la relazione del procuratore generale racconta una Campania dilaniata da una trentina di clan criminali, con circa 5.000 affiliati e con oltre 100.000 persone che in un modo o nell'altro erano coinvolte nel giro criminale. Più di 350 omicidi, uno scenario durissimo che segna un'evoluzione drammatica delle organizzazioni criminali, come ci raccontano Alfonso Martucci, allora difensore di Raffaele Cutolo, e Michele Morello, giudice del processo d'appello del caso Tortora. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Così come è nata la Camorra nuova nel nuovo periodo post-fascista, con Cutolo anche il pentitismo è insorto nell'ambito della nuova Camorra organizzata. Infatti il primo pentito grande fu il braccio destro di Cutolo, che era Pasquale Barra, detto Onimale, ossia l'animale. Oh, che bello gatto, ora in carcere usare la ricetta di Cicciarelli, compagni di cella precisa. Il processo Tortora era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio. Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia sballata, come volete voi, ma comunque un'ideologia. Questi erano senza ideologia, senza niente. Chi non ha niente da perdere va allo sbaraglio, insomma. Dai magistrati, insomma, si affollano i pentiti che vogliono fare dichiarazioni. Lo ricordo, nel maggio dell'82 il Parlamento ha votato la legge sui pentiti. Grazie a quella legge molti terroristi, anche colpevoli di reati gravissimi, hanno beneficiato di fortissimi sconti di pena. È stato in parte quello il prezzo da pagare per sconfiggere il terrorismo. E se i pentiti hanno funzionato contro il terrorismo, ci si dice che possono funzionare forse anche contro la criminalità organizzata. Chi sono allora gli accusatori di Enzo Tortora? Su Radio 24 riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la drammatica vicenda di Enzo Tortora. Siamo negli anni 80 e lo Stato porta avanti la lotta alla mafia, al terrorismo, e lo fa attraverso i primi pentiti. Sono proprio loro a accusare il popolare conduttore televisivo. Così il legale di Enzo Tortora ricorda quei momenti. Tutte le infamie, tutte le accuse, tutte le proposizioni calunniose provenivano dal profondo della fogna carceraria. Eccezione fatta per Margutti. Giuseppe Margutti, pittore, è l'unico tra quanti accusano Tortora che non ha niente a che fare con l'ambiente carcerario. Ad accusare Tortora da principio è un solo pentito, Giovanni Pandico. È in carcere da 13 anni, accusato di omicidio, calunnia e tentato omicidio. A Liveri, in provincia di Nola, Pandico è entrato nella casa comunale per parlare con il sindaco. Gli impiegati non lo vogliono far passare. Pandico allora li uccide, a sangue freddo. Al processo dichiarerà di aver agito per desiderio di giustizia e di vendetta. Una volta in carcere, Pandico conosce Raffaele Cutolo. In breve ne diventa lo scrivano e il segretario. Le perizie psichiatriche descrivono il Pandico. Uno schizzoide affetto da paranoia, un carattere psicopatico abnorme, una di quelle persone che, a causa della loro anormalità, soffrono e fanno soffrire la società. Così la giornalista Marisa Figurato. Questa è la prima persona che accusa Tortora, tra l'altro non lo fa neanche subito, lo fa, se ricordo bene, al quarto interrogatorio, quando consegna un elenco di camorristi, e al numero 60 di questo elenco compare il nome Enzo Tortora, camorrista d'onore. Pasquale Barra, nativo di Ottaviano, viene definito il santista, ovvero il portavoce di Raffaele Cutolo. Viene definito anche il boia delle carceri, nonché o animale, per le efferatezze e la crudeltà con cui uccide le sue vittime. Sostiene di essere stato scaricato da Cutolo, che gli avrebbe anche fatto uno sgarro. Per questo decide di pentirsi. Ai giudici spiega: «I miei amici mi vogliono morto. L'unico modo per salvarmi è affidarmi a voi». È il primo dissociato della criminalità organizzata. Solo al 18° interrogatorio anche Pasquale Barra fa il nome di Enzo Tortora. Gianni Melluso non è né Pandico né Barra. C'è uno psicopatico, né un chiacchierone, né un assassino efferato. È invece un uomo intelligente, un calcolatore, che sa il tempo ed il modo di intervenire nelle discussioni e nei fatti. Le sue dichiarazioni entrano in scena il 22 gennaio 1984. Dall'arresto di Tortora sono passati 7 mesi, come ci spiega Marisa Figurato. Da 2 diventano 19 i pentiti che accusano Tortora nel corso delle indagini e poi del processo di primo grado. Tutta gente che prima accusa, poi ritratta, poi ci ripensa, gente che parla perché parlano tra loro, perché erano spesso, innanzitutto non erano separati neanche durante il processo, stavano tutti assieme nelle gabbie, ma anche durante l'istruttoria si è parlato molto di questa caserma dei carabinieri dove i pentiti avevano l'opportunità, i cosiddetti pentiti, di scambiarsi delle opinioni. Io l'ho definito un concorso a premio. Fate il nome Tortora, conoscerete il mondo, conoscerete le caserme dei carabinieri, avrete dei vantaggi. A questo punto di degrado, di imbarbarimento è ridotto il diritto. E in effetti, come in un concorso a premi, camorristi pentiti sembrano fare a gara nel fare il nome di Enzo Tortora agli inquirenti. Da principio le accuse sono generiche, poi si fanno sempre più precise e circostanziate. Enzo Tortora, si dice, è un uomo di Raffaele Cutolo e controlla per lui lo spaccio degli stupefacenti su Milano. Per il pubblico televisivo, naturalmente, uno shock, un enorme shock. Tortora è un personaggio popolarissimo e amatissimo. Genovese, di 54 anni, colto al limite talvolta dell'affettazione, è nato con la televisione e la televisione ha contribuito a farla in modo determinante. Questi sono i momenti più celebri della sua carriera nel ricordo degli amici e dei colleghi. Ne riconoscerete senz'altro le voci, da Piero Angela a Pippo Baudo a Maurizio Costanzo. Beh, io lo consideravo un personaggio estremamente creativo, intelligente e vulcanico. Mio caro Tortora, di quel tempo è molto meglio non parlare. Ero allora Silvio noto, oggi sono Silvio ignoto. Non è vero, caro Silvio. Caro Tortora, è così. Promenade! E lo ammiravamo tutti nel nostro gruppo. E soprattutto era un uomo molto spiritoso. I grandi di allora erano appunto Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. Tortora era bravo anche quando faceva il gambero alla radio o faceva la domenica sportiva in televisione. Poi ha avuto questa formidabile intuizione di Portobello. Io so per certo che all'interno di Portobello c'erano 5-6 trasmissioni che poi sono state fatte da altri. Questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo qui! Buon Natale a tutti, buon Natale! Si aggirava tra bersaglieri, brigadieri, donnine che piangevano. Un mondo per me insostenibile, insopportabile, vecchio, antico, muffoso, rivisto adesso delizioso, perché insomma rispetto alla volgarità tracimante della televisione, tornassi indietro e dovessi veramente dirgli adesso quello che penso di Portobello, gli direi era un programma strepitoso, geniale. Così Portobello nelle parole della figlia di Enzo Tortora, Silvia. E da Portobello, da quel programma geniale, sono nati davvero, come ha detto anche Costanzo, molti altri programmi di oggi, molti format, come si direbbe oggi, non comperati all'estero, ma prodotti dalla creatività di un autore della Rai. Programmi come Caramba, come Chi l'ha visto e tantissimi altri si sono ispirati a Portobello. Quello di Portobello dal 78 in poi è stato un successo senza precedenti che travolge l'Italia televisiva. Ma adesso, per Tortora, tutto questo è finito. Da quella mattina del 17 giugno, Tortora entra e vive nel tunnel di un incubo. Né lui, né i suoi avvocati, come ci ricorda proprio il suo difensore Raffaele Della Valle, riescono a sapere esattamente di che cosa Tortora sia accusato. C'era l'arresto di Tortora e non sapevamo perché. E solo dopo 3 o 4 giorni, cioè in prossimità dell'interrogatorio, l'interrogatorio del giorno 23, che qualche notizia ci arriva. E si parla di un Tortora che avrebbe contattato che era stato in contatto col mondo carcerario. Si scopre così che effettivamente non Tortora, ma la direzione di Portobello aveva avuto un rapporto di natura prettamente commerciale con un detenuto, Domenico Barbaro. Come si leggerà dai verbali dell'interrogatorio effettuato il 23 agosto del 1983, che vi facciamo ascoltare. Sono e mi chiamo Barbaro Domenico, quinta elementare, barista, già condannato. Dal 1975 al 1980 sono stato recluso nella casa di pena di Porto Azzurro, nell'isola d'Elba. E verso la fine del 1977 ebbi modo di seguire la trasmissione televisiva Portobello, condotta da Enzo Tortora. Si invitavano gli ascoltatori ad inviare oggetti vari. E come fecero altri detenuti, io inviai ad Enzo Tortora, presso la RAI, 16-17 centrini di seta da me personalmente confezionati. Nella redazione di Portobello arrivano più di 2.500 lettere al giorno e non a tutte, ovviamente, si può rispondere. Ascoltiamo ancora il detenuto Barbaro nel suo interrogatorio del 1983. Non ebbi nessuna risposta, né vidi in televisione i miei centrini. Iniziai una ricerca. Tale ricerca venne effettuata materialmente da Giovanni Pandico, mio compagno di carcere. Tutte le lettere furono materialmente scritte dal Pandico. Per l'affare dei centrini scrissi a Enzo Tortora presso la sua abitazione di via Piatti 8. Avevo scoperto tale indirizzo su una rivista. Il Tortora mi rispose. Egregio signor Domenico Barbaro, sono spiacente di dirle che del suo invio ignoro tutto e non ne ho mai veduta la traccia. Quello che mi spiace è che lei traga da questo fatto conclusioni poco onorevoli per me e per il rispetto che ho sempre avuto per chiunque. Le ricordo che centinaia di migliaia di lettere sono destinate al sottoscritto e i pacchi, se non sollecitati espressamente, vengono dalla RAI addirittura respinti al mittente. Ho passato all'ufficio legale della RAI la sua lettera e con l'espressione del mio disappunto voglio accogliere i miei migliori saluti. Accettai il risarcimento. La RAI mi inviò un assegno circolare di lire 800.000. Ricordo poi l'interrogatorio del 23 a giugno del 1983. Vennero formulate a Tortora soltanto 3 sintetiche domande. La prima: lei conosce Domenico Barbaro? E fortunatamente noi avevamo saputo prima della storia dei centrini di Domenico Barbaro, che aveva avuto una corrispondenza con la RAI. Abbiamo estratto dalla borsa, io e Coppola, tutta la documentazione e pensavamo di avere chiarito la situazione, tant'è che il cancelliere divenne pallido perché si rese conto lui pure dell'abbaglio che l'inquirente aveva preso. Gli avvocati di Tortora a questo punto pensano di aver segnato un punto definitivo a favore del loro assistito. L'affare dei centrini, infatti, è completamente chiarito. Ma in realtà le cose sono molto più complesse. Qui su Radio 24 stiamo raccontando la drammatica vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Mix 24, la storia. Bentornati su Radio 24 con la storia di Enzo Tortora. Ad accusare il famoso conduttore di Portobello, oltre al detenuto Domenico Barbaro, c'è Giovanni Pandico, uno dei luogotenenti di Cutolo, che si trova nello stesso carcere di Barbaro. E Pandico dice ai giudici che lo sgarro che Tortora avrebbe fatto a Barbaro non riguarda affatto i centrini, ma una partita di droga. E contro Tortora c'è anche la parola di Pasquale Barra, che riferisce di una filiazione di Tortora alla nuova camorra organizzata. Enzo Tortora, dunque, rimane in carcere. Rimarrà in cella per 7 mesi. Prima a Regina Coeli, poi a Bergamo. Tortora inizia così una lunga corrispondenza con la sorella Anna e con la figlia maggiore, Silvia. Mi domando, cara Silvia, che cosa posso insegnarti dalle mura di Regina Celi, dalle mura della 16 bis, dove fa un caldo atroce. Siamo in 6 disperati e fuori si vede il cielo. Che posso insegnarti, mi chiedo, perché è a te, devi saperlo, è a te che il mio cuore più spesso vola. Silvia, ti ho sempre nel cuore e non riesco mai a dirti un miliardesimo di quanto vorrei. Mi ha insegnato ad essere rigorosi, a non giudicare mai gli altri da quello che si sente dire di loro, a non dare dei giudizi affrettati, a non lanciarsi contro una persona perché ci può essere epidermicamente antipatica, ma sostanzialmente a conservare la propria dignità anche se gli altri vorrebbero che tu fossi diverso da quello che sei. È domenica e come ogni carcerato debbo ammazzare il tempo. La domenica è terribile. C'è chi addomestica pidocchi. Oggi vivo accanto a gente che attende fino a 3-5 anni un processo. È la vergogna del carcere preventivo che va fatta conoscere. È la medievale procedura dell'arresto, della carcerazione senza prove, per semplice chiamata di un folle o di un criminale o di un pentito, che va cancellata dall'universo del nostro diritto. La rabbia, l'indignazione e la frustrazione di Tortora sembrano sbattere contro un muro di gomma. Non solo continuano a venire fuori nuovi pentiti che lo accusano, ma anche gli stessi giornalisti sembrano quasi convinti della sua colpevolezza. I loro articoli spesso ispirano ancora altri pentiti. Per Enzo Tortora è un incubo che sembra senza fine, così la giornalista Marisa Figurato. Usciva di tutto, c'erano cose anche clamorosamente false, ma magari venivano messe in circuito queste cose false, perché gli inquirenti erano tanti, le persone, noi giornalisti naturalmente eravamo tutti a caccia di notizie, perché il fatto era molto clamoroso. La stampa, facendo trapelare delle notizie puramente fantasiose, ispirava indirettamente altri autori di notizie. Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra, quando in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti. C'erano questi pseudo pentiti, questi criminali, chiusi dietro delle sbarre, soprattutto erano circondati da cronisti. E mi ricordo questa assoluta, così, incapacità dei giornalisti di capire con chi avevano a che fare. Questo il ricordo di quei giorni nelle parole della figlia Silvia, ma sono molti a ricordare la difficoltà di guardare al caso Tortora con la giusta lucidità, come testimoniano anche Vittorio Feltri e Piero Angela. Devo ammettere che anch'io nutrivo nei suoi confronti una certa antipatia, perché ricordate, faceva quella trasmissione proprio sulla seconda rete con il pappagallo Portobello, con il pappagallo sulla spalla. Queste cose me lo avevano reso abbastanza antipatico. Qualcuno ha detto giustamente: il successo non si perdona. E allora quando capita qualcosa a un uomo come era lui, di grande successo televisivo, beh, c'è più accanimento nel tirargli le freccette. Davanti a una persona che ci è antipatica, quasi quasi speriamo che sia anche colpevole. Sino che una sera mi sono letto gli atti processuali e mi è venuto il dubbio che Tortora fosse innocente. Tutti quanti eravamo influenzati dalla stampa. La stampa allora era per la maggior parte colpevolista. Non ricordo se arrivai anche io colpevole come cittadino, se arrivai colpevolista o meno. Quello che importa è che dopo, quando feci il processo, non ero più cittadino, ma ero soltanto giudice. Quell'uomo che avete appena sentito è Michele Morello, è stato il giudice a latere nel processo d'appello contro Tortora. La sua testimonianza è la conferma che il caso Tortora, all'inizio degli anni Ottanta, spacca l'Italia in due. Tortora, del resto, è un personaggio amato quanto controverso, non rispettoso delle regole dell'azienda e dei colleghi. Per due volte, infatti, con questa motivazione, era stato allontanato e poi ripreso alla RAI. È un personaggio che ama dire le cose in faccia, non ha paura di mettersi contro i potenti. È visto come uno snob che però ama fare una televisione facile, troppo popolare. Tortora, insomma, per una certa stampa è un perfetto mostro da prima pagina. è il 17 luglio dell'84. Dall'arresto di Tortora sono passati 13 mesi. Il Tribunale di Napoli emette l'ordinanza di rinvio al giudizio per 640 imputati. Altri 87 imputati escono di scena. Sono stati arrestati per errore. 4 febbraio 1985. Inizia a Napoli il maxi processo contro la nuova camorra organizzata. 8 mesi prima, il 17 giugno 1984, Tortora è stato eletto eurodeputato nelle fila del Partito Radicale. Per questo motivo può seguire il processo da uomo libero, così Silvia Tortora. Giulio Andreotti, allora, aveva una rubrica sull'Europeo che si chiamava Block Notes e scrisse una cosa odiosissima. Scrisse: alcuni detenuti evadono con la lima e altri con la scheda elettorale. Il maxi processo durerà 7 mesi con 67 udienze e una settimana di camera di consiglio. Tortora, nel frattempo, continua la sua attività di eurodeputato a Strasburgo. Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata. Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza d'asino, da santi, tutte le sue messiscene. Non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità. Quello che ho visto, lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare. Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutta l'istruttoria. 17 settembre 1985. Enzo Tortora viene condannato. Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. Nelle motivazioni della sentenza di condanna di Enzo Tortora i giudici tra l'altro scrivono: Tortora ha dimostrato di essere un individuo estremamente pericoloso, riuscendo a nascondere per anni le sue losche attività e il suo vero volto, quello di un cinico mercante di morte. Tanto più pernicioso perché coperto da una maschera tutta cortesia e savoir-faire. L'appartenenza di Tortora alla nuova camorra organizzata è stata trovata attraverso le dichiarazioni di Giovanni Pandico, Pasquale Barra e altri. Tutte queste accuse hanno trovato adeguati e convincenti obiettivi di riscontro. Nei confronti di Tortora non è stato posto in essere nessun complotto, nessuna macchinazione, nessuna vendetta personale e non si è voluto coprire nessun omonimo. Non vi è stato nessun accordo dei dissociati diretto ad ottenere benefici speculando sulla personalità di Tortora, il quale non ha fornito alcuna soddisfacente spiegazione alla sua estraneità ai fatti. L'imputato non ha saputo spiegarci il perché di una congiura contro di lui. Hanno fatto bene a condannarlo, il presidente Santoro è stato una persona corretta e precisa, non ha avuto paura né dei socialisti né dei radicali, di nessuno. Ha avuto coraggio e basta. È stata una vittoria dei pentiti questa. No, non è vero, ma a parte la vittoria. E cosa vi aspettate voi adesso da questa sentenza? Ora ci aspettiamo che qualcuno dello Stato almeno ci aiuti, che ci crede come ci ha creduto la giustizia, nel popolo, del nome del popolo italiano, questo ci aspettiamo. Non c'era un minimo di riscontro oggettivo. Non si era fatto un pedinamento, non si era fatto un accertamento bancario, si era fatto una perquisizione domiciliare, non si era trovato nulla. Guardatemi, controllatemi, esaminatemi. Si può sapere entro 3 o 4 mesi se uno è tossicodipendente. Prendetemi un cappello e vedete. Niente, non un riscontro. Mi disse: ricordati che papà è sempre lo stesso, è sempre lo stesso di sempre. Ricordati che tuo papà è una persona per bene. 10 dicembre 1985. Enzo Tortora si dimette da parlamentare europeo. Così la sua dichiarazione. Oggi, 10 dicembre, dunque, io scelgo la via del carcere. E quali carceri in Italia, sapeste, colleghi? Mentre avrei potuto tranquillo continuare a coltivare l'onore di essere e operare per altri anni con voi, in attesa che giustizia fosse fatta di un'accusa che l'intero popolo italiano sente essere mostruosa. 29 dicembre 1985. Milano. Enzo Tortora si consegna alle forze dell'ordine in Piazza Duomo, davanti a migliaia di persone. con una decisione coerente certamente, ma per certi versi anche sconcertante. Dunque Enzo Tortora si dimette da europarlamentare e si consegna alla magistratura il 29 dicembre dell'85. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con il caso Tortora. Dopo la condanna in primo grado a 10 anni, adesso Tortora e i suoi legali resta soltanto da fare l'ultima battaglia, il processo di secondo grado. La sentenza di appello arriva 9 mesi più tardi, il 15 settembre 1986. Sono passati oltre 3 anni dall'arresto di Enzo Tortora. La Corte di Appello di Napoli assolve Enzo Tortora con formula piena. A raccontare quei giorni ancora il giudice Michele Morello. Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partemmo dalla prima dichiarazione, mettendo in ordine cronologico, arrivando all'ultima, ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta. Secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello. Facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati. E se voi condannerete Tortora, Presidente, vi autocondannerete? Vi autocondannerete alla dannazione perpetua, perché Tortora è innocente. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Anche i giudici, oltre a essere antropologicamente matti, sono anche, soffrono di antipatie e simpatie. Possono, una persona può sembrare simpatica o antipatica. E all'inizio in realtà Tortora fece di tutto per dimostrarsi antipatico con noi, perché ci ricusò, perché non si fidava dei giudici napoletani e noi eravamo giudici napoletani, e poi alla fine concluse con quella frase che tutti quanti conoscete. Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie. Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia è la giustizia. Noi facemmo giustizia. Assolte per non aver commesso il fatto dei diritti previsti dagli articoli 416 e 416 bis codice penale, e perché il fatto, non sussiste dal diritto previsto dall'articolo 71 legge sui procedimenti, i seguenti imputati già condannati: Cozzolino Aniello, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Simone, Mariniero Romanda, Moccio Ricci, Tortora Enzo Claudio. È arrivata la liberazione. La liberazione completa di Tortora e la liberazione di noi difensori da un incubo che vivevamo da 3 anni. Non posso nascondere la cosa che mi è costata più amarezza, il fatto che fummo accusati di essere stati, con quell'assoluzione, di essere stati la causa del referendum cosiddetto contro i magistrati, della legge sulla responsabilità civile dei magistrati e altre amenità del genere. Non abbiamo avuto modo di festeggiare niente e ci siamo semplicemente messi a piangere anche dopo l'assoluzione. E poi, essendo tutti forse un po' genovesi, ci siamo chiusi nei nostri rispettivi mutismi, che era il nostro modo di comunicare anche il nostro volerci bene. Dopo esattamente 4 anni dal suo arresto, l'incubo per Tortora sembra dunque finito. Il 20 febbraio dell'87 Tortora torna sugli schermi della Rai e ritorna con il suo Portobello, ripartendo da là dove era rimasto. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, Buona gente, dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. E da cominciamo, come facevamo esattamente una volta. Lo vidi esattamente come lo videro altri milioni di italiani, provai naturalmente un'emozione che non è facilmente descrivibile, era bellissimo questo ritorno in televisione, però si vedeva uno sguardo diverso, si vedeva un uomo segnato, un uomo diverso e da lì cominciò, diciamo, l'ultimo anno di vita di papà. Mio padre sapeva perfettamente che quello che gli avevano causato era un errore irrimediabile, poi lo possiamo chiamare malattia, lo possiamo chiamare cancro, lo possiamo chiamare come si vuole, ma la conseguenza diretta di questo arresto, di questa vicenda, di tutta la tragedia che poi è avvenuta è la morte. Tra i mali che mi hanno fatto quello, e d'altronde il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo, di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore. Io ho avuto la fortuna di avere un appoggio totale dai miei cari e forse non si pensa abbastanza, restando un uomo, a quello che di dolore si semina attorno a lui. Io non chiedo vendetta e non chiederò mai vendetta, ma chiedo semplicemente che la gente capisca il male che si fa. È quella che io definisco, se le cose continuano in questo modo, la cultura del disprezzo. Disprezzo dell'uomo, disprezzo dei valori che nascono intorno all'uomo, che devono nascere, che devono continuare a vivere. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. A domani. We'll be right back.